Vorresti forse dare un'interpretazione dei fatti? Non ci penso neanche. Solo che alle date vorrei aggiungere dei dati. Per esempio, durante la rivoluzione civile libica, la produzione di petrolio è crollata vertiginosamente. Per la legge della domanda e dell'offerta, diminuendo la produzione, il prezzo sale. Poi, che il numero delle vittime è imprecisato, ma è impressionante. Si parla, nella peggiore delle ipotesi, di 30.000 morti e 50.000 feriti. Vorrei poi dire che, come in tutte le guerre, c'è chi va in prima linea e chi resta nelle retrovie. Vorrei dire che, come in tutte le guerre, c'è chi perde la vita, o un braccio, o una gamba, o anche tutte e due. Vengono chiamati quelli che non hanno niente da perdere, e ci sono quelli che hanno solo da guadagnare. Vorrei dire che, come in tutte le guerre, c'è chi uccide, chi muore, chi non si sporca le mani e chi si sfrega le mani. Vorrei dire che, come in tutte le guerre, c'è chi perde un figlio, o la moglie, o il padre, e chi non perde niente, nemmeno la voglia di fare la guerra. E vorrei dire ancora, futuro. Io vorrei dire che speriamo che si cominci una pagina nuova con Italia e Libia. Apriamo una pagina nuova, scriviamo un atto di amicizia vera, senza pacciamano, tutto tranquillo, leale. Lo spettacolo Bel Suol d'Amore, Libia-Italia, un secolo di storie. Drammaturgia e regia Anna Ceravolo, con Alessandro Belardinelli, Piera Fumarola. Testimonianza video di Rosanna Del Mastro, Valerio Del Mastro, Lina Frezzato, Ibrahim Khalil, Khaled Mansur, Renaldo Pacelli, Analgisa Palumbo, Giovanna Palumbo. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Francesco Togliati per presentare la sua mostra fotografica Il silenzio del lockdown, Roma al tempo del Covid. A Roma lo spazio 5 dal 20 marzo al 3 aprile 2025. Ben trovato. Salve, ciao, eccoci. Ce la presenti? Questa è una mostra nata purtroppo ai tempi del Covid, nel senso che ho cercato di tirare fuori l'aspetto positivo e professionale di questa brutta situazione, perché ho avuto modo di volare diverse volte su degli elicotteri delle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, e quindi di riprendere dall'alto in un modo del tutto speciale Roma, quindi le piazze completamente deserte a qualsiasi ora del giorno, e quindi vi assicuro che vedere piazze Navona o Piazza di Spagna, Trinità dei Monti completamente vuota, senza neanche una persona, è una cosa molto molto forte. E anche Ostia e tutto il litorale, insomma, dove di solito a luglio le spiagge erano affollatissime, insomma, ho trovato veramente il deserto. E quindi ho potuto, insomma, cogliere un po' gli aspetti più particolari della nostra città, insomma, sia purtroppo l'aspetto dei clochard completamente abbandonati a se stessi che vagavano nelle strade. Ogni tanto poi io ovviamente giravo anche in scooter, quindi avevo modo anche di parlare con qualcuno, di conoscere, di vedere i pochi che si aggiravano sfidando i divieti, insomma. Quindi è uscita questa mostra molto particolare, perché appunto ha molte foto fatte dall'alto e anche delle riprese, appunto, insomma, a livello strada, che vanno dalle strade deserte a, per esempio, i tifosi inglesi, quando ci fu un'apertura, mi sembra nel mese di settembre, e loro vennero qua a farsi i vaccini, nonché a vedere, insomma, se erano positivi al Covid. Quindi si fecero, insomma, diciamo, tutto un viaggio della speranza per venire qui a vedere la partita e fondamentalmente provare a vaccinarsi. E ci sono anche altre foto della mia carriera professionale, perché io ho Trappese Sera, dove ho lavorato tanti anni, dopo ho fatto l'inviato qualche anno in zone di guerra, quindi troverete anche foto di Sarajevo o della Romania durante la rivoluzione e qualcosa, insomma, in Slovenia. Quindi, insomma, sarà una mostra molto incentrata sui 5 anni che sono passati dal Covid, ma anche su altri aspetti di un'Italia inedita e anche, appunto, dei conflitti nell'Europa dell'Est. Quindi più una personale che una tematica. Il tema fondamentale presente in tutta la mostra è Roma vista dall'alto e vuota. Poi, come una piccola presentazione, sono tra l'altro da pochi mesi 40 anni di professione, ho voluto mettere anche altre foto che mi rappresentano professionalmente, di tragitti che ho fatto dai 22 ai 62 anni, insomma, di attività fotogiornalistica. Quanti scatti sono esposti? Sono 76 scatti più o meno, come insomma il pittore che finisce l'opera a cui è molto affezionato, alla fine posso decidere se metterne uno in più o uno in meno. Vari formati, bianco e nero e colore? Formato è 20x30, però ci sono anche diverse foto in bianco e nero, sempre sul tema più che altro legato ai viaggi, quindi ci saranno foto in bianco e nero della guerra in Romania, della rivoluzione in Romania, della guerra in Jugoslavia e anche qualcosa alle Azzorre, perché fra i tanti viaggi che ho fatto sono stato alle Azzorre quando precipitò un aereo dell'American Airlines e mi trovai lì, io e un fotografo dell'Associated Press, a dover riprendere un disastro aereo per la prima volta nella nostra vita, penso. La guerra è sempre attuale, mentre il periodo Covid sembra proprio un'altra era. Sì, esattamente, infatti è incredibile. Questi 5 anni ovviamente sono passati fra paure, timori, cambiamenti di tutti i tipi, insomma. E sicuramente vivendo a Roma non mi sembra che ci abbia fatto così bene, che siamo diventati migliori, come dicevano, ma insomma forse ci ha anche un po' peggiorato come personalità. Purtroppo per quello invece che riguarda la guerra vedo che è sempre presente nella storia degli uomini, sembra che proprio non riusciamo a farne a meno. Io speravo di aver dimenticato con Sarajevo, insomma, il conflitto nell'Europa dell'Est, ma vedo che continua, inesorabile. Com'è stata l'esperienza in zone di guerra? Innanzitutto è stata molto improvvisa, io lavoravo per questa agenzia che si occupava appunto di cronaca, attualità, eccetera, e quando è scoppiato il primo conflitto in Romania sono stato chiamato per sostituire un collega che era stato ferito e quindi mi sono trovato la sera di Natale con il teledrin che suonava e il giorno dopo siamo partiti con un C-130 dell'aeronautica per Bucarest e praticamente abbiamo passato lì dal 26 dicembre Santo Stefano 20 giorni insomma a documentare questa cosa. È stata una cosa molto improvvisa perché rispetto ad altre guerre quella era proprio una rivoluzione, quindi c'era questo pericolo della sicurezza che era questa polizia segreta che stava un po' dappertutto e quindi non sapevi veramente dove andare e fondamentalmente di chi fidarti, insomma. E comunque, ecco, proprio in generale, vedere la guerra è sempre un'esperienza veramente che ti segna a lungo, insomma. Soprattutto io ho chiuso con Sarajevo e tornando ho deciso che sarebbe stata l'ultima volta, fondamentalmente per due motivi. Il primo era nata mia figlia Giulia e il secondo è che quando ti rendi conto di essere arrivato a un punto di saturazione è meglio fermarti e fare altre cose. Fortunatamente proprio in quel periodo ho avuto una proposta di collaborazione con il giornale per il quale lavoro tuttora, che è Il Messaggero. C'è uno spazio web dove saperne di più sulla tua attività? Sono uno molto prolifico su Facebook, nel senso che mi piace molto mettere la foto del giorno, delle foto che scatto a Roma. Io ho questa abitudine di girare sempre con la macchina al collo e quindi di riprendere quello che vedo. La mostra fotografica Il silenzio del lockdown, Roma al tempo del Covid, a Roma lo spazio 5 dal 20 marzo al 3 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al fotografo Francesco Togliati. Alla prossima! Ciao, ciao, grazie a voi, grazie. Con Bruno Fusciardi, curatore del libro Ma noi non potevamo aspettare più. Ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Ci presenti questo lavoro? Il lavoro che si è sviluppato in alcuni anni raccoglie le voci direttamente di una parte dei protagonisti della lotta per la casa a Roma a partire dal 1969 per tutti gli anni 70. L'interlocutore principale della prima parte del libro, che poi ha dato il titolo al libro stesso con una sua affermazione, è Renato Fattorini, il quale viveva a Borgata Gordiani in condizioni indegne, come descrive bene nel libro, e a un certo punto non potevamo aspettare più, bisognava abbandonare quel luogo malsano della Borgata Gordiani e andare

il fondatore, il motore immobile di tutta l'esperienza Torazina, cioè Francesco Macarone Parnieri alias Cipitone o War Bear, a seconda di come è conosciuto a Roma o a livello internazionale. È nata da se stessa, si è autogenerata, non come Minerva dalla fronte di Zeus, ma come un brufolo che è esploso sulla faccia di una società complessa che manifestava i segni di dissolvimento e di destrutturazione che poi abbiamo imparato a vivere in questi anni qua. È nata come un'esperienza dalle nostre vite, dalle nostre esperienze di movimento, dai nostri riferimenti culturali e controculturali. Tutto questo finì in calderone metilico che era quello della stagione dei rave degli anni 90 a Roma, e creò un movimento multiforme pressoché irresistibile per qualche anno, che poi ebbe comunque il suo arco di crescita e poi la fase di caduta. Era qualcosa che nasceva con questo spirito, diciamo, delle occupazioni per molti di noi dopo l'esperienza della Pantera, quella voglia di occupare che poi si trasferì nella stagione dei centri sociali romani, che fu un'emozionante fase che in Italia ebbe pochi pari, e che portò poi a dimensioni diverse che erano quelle della TAS, dell'occupazione temporanea di zone, le zone temporaneamente autonome che derivano dal famoso libro di Hakim Bey, che ci portò a fare queste esperienze tutte assieme in quelle mattine chimiche attraversate da lampi di fattanza. Elaborammo quello che poi sarebbe diventato Torazina, che erano le nostre fisse, i nostri deliri messi su carta in una forma di attacco grafico e concettuale. Che cadenza ebbe Torazin e da che periodo a che periodo uscì? 95-2001, cadenza quando ce la facevamo a farlo uscire, perché comunque va considerato che, a parte la difficoltà di tutta l'esperienza di controcultura nella produzione di artefatti cartacei, comportano un impegno, cioè fare le cose significa metterci, scriverle almeno, poi bisogna trasformarle in qualcosa che viene stampato su carta. A questa difficoltà noi ce ne aggiungiamo un'altra, cioè ponemmo anche il nostro livello di ulteriore difficoltà, cioè che noi volevamo un prodotto che non fosse la classica fanzine in bianco e nero stampata in fotocopia, che era l'erede del ciclostile con la quale noi ci eravamo tutti allenati e abbeverati. Cioè noi stiamo venendo poi da esperienze come il punk, il do it yourself, le autoproduzioni e via dicendo, siamo cresciuti a pane e fanzine. Noi volevamo fare una cosa diversa, noi volevamo fare un rotocalco, volevamo fare una rivista, volevamo fare una cosa che fosse bella da tenere in mano, bella da leggere, che ti riempisse gli occhi e la testa, quindi con un sacco di colori, una grafica debordante, perché se poi vedete Torazin c'è quasi più grafica che testo, che dopo dirò una cosa sul testo che spiega molte cose. Volevamo fare una cosa bella, le cose belle sono costose, quindi si vuole sia costoso in termini di tempo, sia costoso in termini di mezzi economici, perché poi devi pagare il tipografo. Noi ci mettevamo lì, facevamo queste nostre riunioni che erano divertenti quanto più rispetto che a volte, a seconda di come girava riuscivamo a mettere insieme il numero. Messo insieme intendo impaginato professionalmente da grafici professionali, i grafici meccanici Giovanni Bine e Emanuele Ragnisco, in particolare Giovanni Bine, sono stati i responsabili, in particolare Giovanni, della bellezza di questa rivista. Ora, fatto quello, ritrovarsi per fare il pronto per la tipografia era una cosa, e già ci voleva il suo tempo. Poi dovevi trovare i soldi però per stampare. E quindi facevamo iniziative, sono stati ospitati principalmente al Forte, e infine anche in altre situazioni di movimento. Iniziative, sottoscrizione, metti sui soldi, quando hai soldi abbastanza vai dal tipografo e paghi almeno anticipo. Quindi la scadenza era segnata dalla nostra capacità di fare la rivista e dalla nostra capacità di pagare il tipografo. Li abbiamo pagati quasi sempre tutti, anche se abbiamo lasciato anche quei corsi in giro. L'importante era far uscire la rivista. Quando era pronta usciva. Comunque, diciamo, più o meno un anno e mezzo tra il numero e l'altro, tra il 95 e il 2001. Questa antologia? È una sorpresa che ci è arrivata 2 anni fa. Noi come collettivo di redazione non ci siamo mai separati, non ci siamo mai persi, siamo rimasti sempre tutti insieme, sono più di 30 anni che facciamo cose insieme, ci vediamo regolarmente, insomma noi continuiamo a esistere come gruppo di persone, di amici, di compagni e compagne. 2 anni fa arriva questa proposta da Nero di ristampare l'integrale. A me sembrava una cosa assurda, perché noi davamo questa esperienza come avvenuta e situata nel tempo in cui era avvenuta. Siamo gente che alimenta punti del passato, viviamo abbastanza nel futuro più che nel presente, e quindi vedere quella cosa è da passata. Arriva e ci propone la ristampa. Noi siamo stati sorpresi, felici, desiderati, anche un po' preoccupati, perché il voto non ce la rimettevano a tutta la roba. Comunque questa cosa è accaduta ed è stata una cosa fantastica. A parte per me è stato bello comunque vedere il prodotto che fai, che viene rivalutato e viene rimesso in circolazione. Quello che sicuramente non ci aspettavamo è stata la risposta a questa ristampa. Siccome il meccanismo di Nero e Radiger è ora o mai più, si prenotano le copie, quindi quelle prenotate vengono stampate e vendute. Credo che ne siano state stampate e vendute circa 2000. Noi non abbiamo mai venduto 2000 copie di Torazin, anche perché il primo numero calcola che lo regalavamo in sottoscrizione a Forte, per chi veniva pagava la sottoscrizione e otteneva un numero. Gli altri li vendevamo con una distribuzione che ci ha portato anche nei circuiti ufficiali. Il Torazin veniva venduta nelle Feltrinelli ed era già un atto sovversivo trovare la rivista con i contenuti a fianco a Micromega, all'Imes o roba del genere. Però noi siamo dei flescioni, siamo la banda di burloni che siamo, quindi la fase della vendita di solito ce la perdevamo. Dopo 30 anni che si vendono 2000 cose di quello che fa, è lusinghiero. Ne siamo felici e soprattutto ha scatenato un effetto collaterale che io mai nella vita avrei mai pensato di vedere, e cioè che alle iniziative di presentazione della ristampa ci sono più ventenni che sessantenni, e noi siamo tutti sessantenni più o meno. Quindi evidentemente piace. L'antologia Torazin 666. Un saluto e un ringraziamento a Baby Long Beach, redattore della rivista. Alla prossima! Grazie, un saluto a tutti! È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti teatrali e anche con gli eventi culturali a cura di Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone! Ed eccoci a questa nuova settimana teatrale a Roma. Vediamo un po' che cosa ci offre il teatro in questa città, partendo come sempre dal nostro Teatro Tor Bella Monaca, che presenta questa settimana due spettacoli. Il primo si tratta di questo Cena tra amici, sarà in scena dal 18 fino al 22 di marzo, e la regia è di Gabriele Namio ed è un testo di due autori francesi che si chiama Cena tra amici, appunto, una commedia brillante, un atto unico che mette alla luce i veri valori sui quali ogni esistenza fa leva: la famiglia, l'amicizia, l'amore, e questa vicenda fa trasparire, insomma, la comicità velata di un retrogusto amaro. Quindi, insomma, una commedia brillante, ma con qualche retrogusto particolarmente contrastante. Quindi 18-22 marzo per questo Cena tra amici. Segue al Teatro Tor Bella Monaca questo lavoro firmato da Alessandro Carvaruso con Alessandra De Pascalis, Giovanni Zappalorto, Francesco Lappano, dal 18 fino al 23 di marzo. Si tratta appunto di Mi vedo con uno, racconta delle donne di questa epoca veramente emancipate dagli stereotipi comuni, sono cambiate le dinamiche uomo-donna nell'arco dei tempi, il problema delle relazioni. Ecco, i cinque personaggi dell'attrice Alessandra De Pascalis cercano di affrontare proprio questo argomento relazionale. Quindi 18-23 marzo per Mi vedo con uno, Teatro Tor Bella Monaca. E andiamo poi da qui alla Cometa Off, dove questa settimana dal 19 al 23 di marzo torna lo spettacolo Dark Moon, liberamente tratto da Io venia pien d'angoscia a rimirarti, il romanzo di Michele Mari dedicato al giovanissimo, insomma, Giacomo Leopardi, bambino in casa, nella sua casa di Recanati con i suoi fratelli e la famiglia, e una storia di attrazioni lunari e licantropia. Per come lo ricordo, la regia e la drammaturgia è di Matteo Fasanella, con Sabrina Sacchelli, Niccolò Berti, Giuseppe Coppola, alla Cometa Off 19-23 di marzo. Al Teatro Villa Panfili prosegue l'Augusta Menus, la segna di teatro Under 35, in questo caso il 22 di marzo. Andremo a vedere la compagnia Fangta alle ore 17, quindi nel pomeriggio, con La Serra Morte, questo spettacolo firmato da Simone Guaragna con la regia di Daphne Folliero e Martina Spampinato. Si tratta della storia di Bondo, un inventore alla ricerca di risposte, che si intreccia con quella di un gruppo di ragazzi alla deriva. Si tratta di un eco-noir, così ci dice la scheda, che riflette sulla sopravvivenza nell'epoca, appunto, dell'antropocene, ambientato in un futuro prossimo, questa megalopoli deserta che diventa teatro di incontri e tensioni. Questo è quello che ci propone il teatro Villa Panfili con La Serra Morte, sabato 22 marzo alle ore 17. Andiamo oltre, perché invece domenica 23 di marzo alle ore 17 Federico Malvaldi con in scena Veronica Rivolta porta in scena Piaf all'Altrove Teatro Studio, chiaramente dedicato alla grande cantante francese de La Vie en Rose, questa vita che inizia tormentata sui marciapiedi di Parigi, che poi procede e diventa insomma il simbolo della voce di una Francia novecentesca. Piaf, domenica 23 marzo all'Altrove Teatro Studio. Al Teatro Basilica, oggi e domani 18-19 ci sarà Marco Sgrosso con il suo omaggio a Thomas Bernhard, A colpi d'ascia, un'irritazione, cui cura insomma la regia e l'interpretazione, le musiche dal vivo in scena con Cristiano Arcelli, Marco Sgrosso, insomma, che ha fatto compagnia con Elena Bucci per tanti anni, insomma, compagnia nota, famosa, con ironia spietata cerca di scandagliare, no, con Bernhard le miserie, le perfidie, le ipocrisie dell'ambiente artistico dell'amata e odiata Vienna, che però insomma poi serve per pensare all'arte, alla cultura in ogni parte del mondo, soprattutto nel nostro mondo contemporaneo. Quindi oggi e domani 18 e 19 di marzo Marco Sgrosso, A colpi d'ascia, un'irritazione di Thomas Bernhard al Teatro Basilica. Alla Fortezza Est invece Francesco Iaia scrive, dirige e interpreta con Gianmarco Cro questo lavoro che si chiama Intervallo, 20, 21, 22 di marzo. È un lavoro che, partendo da uno straordinario episodio di traffico stradale, si interroga sulle reazioni umane e sull'istinto antropico di sopravvivenza. Lo spettacolo in tre atti, c'è una congestione autostradale, ma non è solo traffico, una presa di posizione molto chiara. Qualcuno ha bloccato il flusso di macchine, l'autostrada non si muove, qualcuno è lì seduto a terra e presto il buon senso lascia spazio al panico, l'ansia e la violenza. Quindi 20-22 di marzo alla Fortezza Est per Intervallo. Al Teatro Belli per la rassegna Expo Teatro Italiano Contemporaneo due spettacoli, 18-20 marzo per Pupa e Orlando di Giuseppe Fava, una vicenda insomma che riguarda due ragazzi di vita con Marco Aiello e Claudio Meff, una vicenda amorosa tra una puttana e un menestrello d'origine siciliana, lei martire, lui ladro e pappone, insieme girovaghi e avventurieri sempre in rivolta. Questi sono Pupa e Orlando, mentre invece 21, 22 e 23 marzo ritorna a Roma, uno spettacolo già visto, sempre che ha a che vedere con la Sicilia, anche un po' di più devo dire, Io mai niente con nessuno avevo fatto, Gioele Anastasi con Enrico Sortino, Sortino, Federica Carruba Toscano, questo paesino della Sicilia alla fine degli anni 80, due cugini che crescono come fratello e sorelle, giocano per cancellare la solitudine ancestrale di una famiglia senza padri. Quindi al Teatro Belli doppio appuntamento con Expo anche questa settimana. Io invito a seguire anche una rassegna che è una rassegna che oggi ricorderemo soltanto diciamo retroattiva, perché in scena è andata ieri sera ma poi continuerà ancora poi le settimane, settimane, mesi successivi. Si tratta di questa quarta edizione della rassegna di teatro e cultura ispanica al Teatro Palladium. Ieri si cominciava con Musica per Hitler di Yolanda García Serrano, Juan Carlos Rubio, e si tratta appunto in questo caso di performance musicali, mentre invece oggi e domani 18-19 marzo Loredana Scaramella dirige questo Sbandate di Laila Ripoll con in scena Mimosa Campironi, cantautrice e attrice, insomma abbiamo già visto in altri contesti, quindi invito a cercare sul sito del Teatro Palladium qualche informazione in più. Si parlerà anche dei temi della sofferenza, della resistenza, della speranza, una riflessione sulla condizione della donna che mette in luce la lotta per la liberazione e l'emancipazione. Questo appunto da discutere prima il 18 di marzo, ovvero oggi alle 18.30, a seguire poi alle 20, insomma andrà in scena Sbandate, il testo con la regia di Loredana Scaramella. L'ingresso è libero. Mentre dal 19 al 30 di marzo Ciarlatani di Pablo Remon, una commedia con quattro attori in scena, ci sarà Silvio Orlando e insieme insieme a Silvio Orlando, Francesca Botti, Francesco Brandi e Blu Yoshimi, testo tratto da Los Farsantes, appunto, di Pablo Raimon, la traduzione italiana di Davide Carnevali, appunto sulla scena del teatro Ambra Iovinelli dal 19 fino al 30 di marzo. Segnalo che al Teatro Vittoria La Lettera con Paolo Nani dal 18 al 23 di marzo, mentre invece al Teatro Lo Spazio si torna alle Signorine nel Tempo, l'epopea delle Signorine Buonasera di Veronica Liberale, la regia di Pietro De Silva, dal 19 fino al 23 marzo, un lavoro insomma che riporta in auge le famose Signorine Buonasera, le annunciatrici della prima televisione, insomma quelle che c'erano in televisione fino a qualche anno fa e un po' entrate nelle case di tutti gli italiani, insomma per più di un'epoca. Mentre il Teatro Vascello si apre alla danza con Cristiana Morganti, il suo debutto romano dal 21 al 23 marzo di Behind the Light, e la danza, coreografia, drammaturgia e interpretazione, tutto di Cristiana Morganti, appunto in scena al Teatro Vascello. Si tratta di un solo in questo caso, ma la regia è insieme a Gloria Paris. Cristiana Morganti porta questo spettacolo fortemente autobiografico, racconta di una crisi familiare, professionale e intima, eventi con il tipico effetto domino in cui una disgrazia sembra chiamare l'altra. Questo è quello che c'è in Behind the Light dal 21 al 23 di marzo al Teatro Vascello. Invece al Palladium, che abbiamo già ricordato ma per un verso con la rassegna di teatro di cultura ispanica, 22 e 23 marzo ritorna la compagnia Berardi Casolari con César Bri alla regia, che reinventano l'Ulisse, e sarà questa Lidodissea, una drammaturgia originale che intreccia il mito e il presente, prosegue una riflessione sul senso di inquietudine e inadeguatezza dell'uomo contemporaneo. I protagonisti sono Ulisse, Penelope, Telemaco, rappresentati come una famiglia in vacanza in uno stabilimento balneare. C'è un alternarsi di flashback, flash forward, in cui rivivono le avventure mitologiche trasformate in un viaggio interiore. Quindi divertente, interessante questo lavoro di Berardi Casolari. 22-23 marzo, Teatro Palladium. Spazio Diamante, tre spettacoli in questa settimana. Si comincia già ieri in realtà con Il cuore debole di Antonio. Si tratta di un lavoro di Simone Giacinti e con la regia di Francesco Giordano. Sono quattro gli attori più Simone Giacinti, ecco, e racconta del 4 giugno del 1989 un gruppo di amici parte in direzione Milano per seguire la squadra del cuore trasferta la Roma, e tra questi c'è Antonio. La vita di Antonio finirà proprio quel giorno. Si chiamava Antonio De Falchi, lo dico io per molti che lo ricorderanno, e quindi questa storia ha molto a che vedere col tifo organizzato e col tifo, con le storie che stanno attorno a tifosi particolari che poi diventano insomma simboli nella storia del tifo di quella squadra di calcio. Quindi ancora oggi e domani per Il cuore debole di Antonio. Poi ancora 20-23 di marzo per andare a vedere questo Al posto sbagliato, storie di bambini vittime di mafia, tratto dal libro omonimo di Bruno Palermo, la regia e l'adattamento di Francesco Pupa. Si tratta di una storia che ha a che vedere chiaramente con la mafia, una sigaretta accesa, un uomo di spalle, una nube di fumo, un libro che si apre, un racconto che inizia come una fiaba. C'erano una volta tre fratelli. E questa leggenda, questa storia, questa vicenda si innesca attraverso la relazione parentale, familiare, ma chiaramente poi articola il proprio racconto dalla storia di quei bambini fino poi ad eventi che hanno cambiato la storia d'Italia. 20-23 di marzo per Spazio Diamante, Al posto sbagliato. E questa settimana però allo Spazio Diamante ci andiamo anche per Figli di Abramo, un patriarca, due figli, tre fedi e un attore. Il testo si chiama Abraham's Barn di Svein Tindberg, autore norvegese che appunto ha fatto diventare questo spettacolo un cult del teatro di narrazione. Figli di Abramo è un lavoro firmato dalla regia di Gianluca Jumiento, con musiche dal vivo e l'interpretazione di Stefano Sabelli, e racconta il diario di viaggio di un attore che a Gerusalemme incontra una guida palestinese che ama i film di Trinità e che da lì si mette alla ricerca dell'Abramo perduto. Diventa così spunto per una narrazione colta ma ricca di ironia e di divertimento, che indaga l'origine delle tre grandi fedi monoteiste. E quindi Figli di Abramo con Stefano Sabelli allo Spazio Diamante. al Teatro Quarticciolo. Questa settimana andiamo per il teatro per le nuove generazioni. Arriva una delle compagnie più importanti del teatro per le nuove generazioni in Italia, ovvero sia la Baracca di Bologna, del Teatro Testoni, insomma, per chi ricorda quest'altro nome, con questo lavoro che si chiama On Off, nato da una ricerca condotta all'interno dei nidi di infanzia per osservare il rapporto delle bambine e dei bambini con la luce e con il buio. È uno spettacolo che asseconda e valorizza la curiosità dei più piccoli nei confronti delle fonti luminose. Dai 5 anni, insomma, e la regia di Valeria Frabetti, in scena Andrea Buzzetti, che insomma, entrambi poi con Carlotta Zini hanno curato l'ideazione completa di questo spettacolo. 23 marzo, ore 17, Teatro Biblioteca Quarticciolo. Al Teatro Torlonia arriva per una sera soltanto, 21 marzo, Giulia Trippetti, che dirige, scrive, interpreta questo La moglie perfetta. Siamo con una donna vestita anni 50, una lavagna in scena, una serie di scuola. La storia è quella di una ragazza giovane e piena di sogni, in un mondo vecchio quanto un cartellone pubblicitario ormai sbiadito. Una ragazza che diventa poi la docente di un singolare corso di comportamento e buone maniere. Il suo è un seminario intensivo solo per donne di preparazione al matrimonio, dal titolo Si può far. Ma chi è questa donna? Qual è la sua storia? Cosa si nasconde dietro la sua maschera? Era perfetta, lo andremo a scoprire con Giulia Trippetta il 21 di marzo al Teatro Torlonia. Poi al Teatro Torlonia sempre, 22 e 23 marzo, arriva il Teatro per le Nuove Generazioni, anche qui con Cra Cra Punk, col testo e la regia di Gigio Brunello. In scena ci sono dei burattini e raccontano di un neonato che, caduto dal cielo per una svista della cicogna, si trova davanti alla porta di Ada, la signora morte. Come resistere di fronte a tanta tenerezza? Ada si abbandona a un desiderio impossibile, diventare mamma, e nelle sue condizioni, insomma, forse non è il caso. In ogni caso, 22-23 marzo, Cra Cra Punk al Teatro Torlonia. Allora, Teatro Argo Studio. Arriva uno spettacolo che ha delle curiose intenzioni. Allora, Stabat Mater, che è il titolo del testo scritto da Antonio Tarantino, uno dei maggiori drammaturghi italiani di questo ultimo periodo storico, ma anche insomma un bel po' indietro, devo dire. Testo che è valso poi a un'altra regia, quella di Walter Malosti, il premio Ubu, ricordo tanti anni fa, un spettacolo importantissimo. Quindi è un testo notevole, insomma, un testo già frequentato dal teatro. Sarà in scena con Fabrizia Sacchi e con Emma Fasano. La regia è di Luca Guadagnino, insomma un regista importante. Dal 20 al 23 marzo al Teatro Argo, questo lavoro dedicato ad Antonio Tarantino, la regia di Luca Guadagnino, in scena Fabrizia Sacchi ed Emma Fasano, una preghiera d'origine medievale, Stabat Mater, che fa riferimento alla permanenza di Maria di Nazareth ai piedi del Cristo, ai piedi della croce del Cristo, ed è un titolo ricorrente nella letteratura e nell'arte, ma in questo caso Maria è una donna sola, emigrante dal sud a Torino, che urla, vomita al mondo, soprattutto all'amore della sua vita, giù va la sua disperazione, e lo fa con grazia e sarcasmo nel suo dialetto in napoletano. Quindi 20-23 marzo per questo Stabat Mater al Teatro Argo Studio. Ancora due cose da ricordare. La prima è che al Teatro Argentina arriva un grande classico firmato da Valerio Binasco, dal 19 al 30 di marzo, Sei personaggi in cerca di autore, di Luigi Pirandello. È insomma uno spettacolo decisamente da segnalare. In scena sarà Bertelà, lo stesso Binasco, Iuri Ferrini, Giovanni Drago, Giordana Faggiano ed altri attori. Appunto, al Teatro Argentina, questo testo che indaga le contraddizioni della scena e del teatro attraverso l'incontro, scontro tra parola e regia, finzione e vita reale. Ci sono sei personaggi che irrompono all'interno di una sala prove dove un capocomico e gli attori stanno provando una commedia di Luigi Pirandello, sono anche un po' annoiati. Questi sei personaggi che un autore ha scritto ma non ha mai messo dentro una storia, reclamano di essere rappresentati. Cent'anni fa, un po' di più in realtà, nel maggio del 1921, questo spettacolo andava a rompere gli schemi del teatro Fillì rappresentato, facendo scandalo proprio al Teatro Valle di Roma, Teatro Valle che adesso è chiuso per vicende che non sto qui a ricordare, ma che un po' tutti potremmo andare a ritrovare, e noi però ce lo andiamo a vedere dal 19 al 30 marzo al Teatro Argentina. Ma Questa settimana torna a Roma uno spettacolo importantissimo, firmato da Giorgina P e Blue Motion, la riscrittura del Filottete, che prende il nome di Lemnos, ispirato appunto al mito di Filottete. 19-23 di marzo, con Gaia Insenga, Giampiero Giudica, Aurora Perez, Gabriele Portoghese, Alexia Sarantopulo e l'ambiente sonoro creato dal collettivo Angelo Mai. Racconta questo spettacolo, che è appunto una riflessione sul mito di Filottete, confrontandosi con l'omonima tragedia di Sofocle e le vicende biografiche dei tanti antifascisti greci condannati, confinati, torturati, uccisi in Grecia dal 46 al 74. Tra di loro anche il grande poeta Giannis Ritsos, con lui molti uomini e donne della letteratura e del teatro greco, vissero l'esperienza della tortura reiterata, ma contemporaneamente riuscirono a fare teatro, riscrivendo proprio delle tragedie a partire da questa esperienza. Siamo appunto in un'esperienza particolare che va indietro nel tempo a cercare delle isole, lager, dove si cercava di mettere gli artisti confinati lontano dalla società che potesse pensare. Oggi non c'è bisogno di confinare degli artisti in un'isola, il mondo stesso è diventato un'isola in cui gli artisti hanno sempre meno voce e quindi, insomma, Lemnos è uno spettacolo altamente contemporaneo, urgente, necessario. 19-23 marzo all'Angelo Mai. E con questo è tutto. Ciao a tutte e tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.